24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui alle 7 e 19 minuti, riparte una settimana di 24 mattino, c'è con noi Fabio Cantadori oggi in regia, ci accompagna Filane 9, sveglissimo come sempre a quest'ora. Ebbene sì, sarà con noi alle 8:20 il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, sarà nostro ospite, tornerà perché domani ci sarà l'incontro con il premier Mario Monti per parlare della situazione della Sicilia. Parleremo poi alle 8:30 di stipendi, beh, l'avete sentito anche sui giornali, tra poco lo vedremo, si parla molto degli stipendi degli italiani. C'è uno stipendio che sta suscitando polemiche, quello per il direttore generale della RAI, 600.000 euro e contratto a tempo indeterminato, ma insomma di questo ne parleremo più avanti, gli stipendi dei manager di Stato e gli stipendi, se volete, vostri cari italiani. Intanto andiamo a scoprire cosa ci preparano e cosa ci presentano i giornali in edicola. È lunedì 23 luglio, intanto iniziamo con i titoli, il Sole 24 Ore dell'edizione del lunedì. Comuni, ecco le spese da tagliare, questo è il titolo di apertura. A Roma le consulenze costano 5 volte più che a Milano, Enna al top per i rifiuti, uno studio su quello che costano appunto tutti i nostri comuni. E poi per quel che riguarda gli stipendi, l'apertura del Corriere della Sera, precari 8 assunti su 10. C'è poi in prima pagina anche il titolo di una notizia che ha solo il Corriere della Sera: il governo studia anche il taglio dei fondi per i sindacati. Il Messaggero, stipendi fermi da 10 anni, e il Secolo XIX anche a questa apertura, nuovi assunti, precari 8 su 10. La Repubblica invece, euro, la Grecia quasi fuori, il Fondo Monetario pronto a bloccare gli aiuti. La Stampa, 10 città a rischio fallimento, in cima alla lista Napoli e Palermo. Insomma, vedete che i titoli sono tutti all'insegna del grande ottimismo, eh? Il Giornale, ora Monti si sente De Gasperi, autobeatificazione, mentre l'Unità riassume la situazione politica con questa domanda in prima pagina: meglio votare a novembre, l'ipotesi del voto anticipato. A proposito di voti e di quello che è successo in Parlamento, voglio segnalarvi intanto per iniziare ciò che Carlo Bertini sulla Stampa mette a pagina 9. Dal mondo della casta, intanto il Senato boccia la norma anti-transfughi. Sapete che sono molti i parlamentari che vengono eletti con un partito, entrano in Parlamento con uno schieramento e poi durante i 5 anni di legislatura vengono colti come una folgorazione sulla via di Damasco e cambiano a volte 1, 2, 3, 4 casacche, vari partiti. E allora c'era una norma per impedire tutto questo, come è andata a finire? Ripeto, Carlo Bertini sulla Stampa, pagina 9, può sembrare incredibile di questi tempi, considerando tutto quello che i politici vanno dicendo sul bisogno di recuperare fiducia dei cittadini. Ma è avvenuto anche questo: una maggioranza schiacciante e trasversale ha bocciato senza appello in aula al Senato una norma per vietare i cambi di casacca in corsa, cioè quei salti della staccionata che molti onorevoli sono adusi fare passando con grande disinvoltura da un gruppo parlamentare diverso dal partito che li ha eletti in Parlamento. Il fenomeno dei cosiddetti transfughi dall'inizio della legislatura ad oggi ha fatto contare più di 100 casi, con un rapporto di 1 a 10 sul totale degli eletti, che ha coinvolto tutti i partiti senza distinzioni. E allora, era stata proposta una modifica dell'articolo 67 della Carta sull'assenza di vincolo di mandato, era stata proposta dal senatore del Partito Democratico Roberto Della Seta, che insieme a Francesco Ferrante e a una decina di altri colleghi aveva presentato un semplice emendamento per far sì che ai parlamentari non più in sintonia col proprio partito fosse consentito solo passare al gruppo misto, ma non a gruppi di partiti diversi. Ebbene, come è andata a finire appunto? Grandi applausi, Applausi di circostanza quando è intervenuto Della Seta, che ha cercato di far capire ai suoi colleghi che questo fenomeno di transfughismo parlamentare è una delle cause principali del discredito della politica, della sfiducia crescente dei cittadini, un problema aggravato dalla legge elettorale che già sottrae agli elettori la possibilità di scegliere i loro rappresentanti. Ebbene, grandi applausi per l'appunto, votanti 281, favorevoli 45, contrari 233, astenuti 3. Il Senato non approva e dunque tentativo respinto al mittente, racconta Carlo Bertini sulla Stampa, pagina 9. Voglio poi saltare su quello che scrive Repubblica. È una notizia che ha in esclusiva il quotidiano e riguarda la vicenda recente dei cosiddetti corvi in Vaticano, la vicenda VatiLeaks, la vicenda che ha portato il maggiordomo del Papa, come è stato definito, Paolo Gabriele, agli arresti in Vaticano per i documenti che sono stati portati fuori, documenti segreti, documenti anche di lettere inviate direttamente a Papa Benedetto XVI, che sono stati trafugati e sono stati poi pubblicati dal libro di Gianluigi Nuzzi. Ebbene, c'è una svolta sul corvo del Papa, la notizia di Marco Ansaldo in prima pagina, altri tre sotto inchiesta. Dopo il maggiordomo del Papa venne la governante tedesca, la donna capace di capire la scrittura minuta e articolata delle carte di Benedetto XVI. E insieme a lei, dopo la governante, l'ex segretario personale di Josef Ratzinger, tedesco pure lui, oggi vescovo. E infine il cardinale italiano che aiutava il pontefice a redigere i discorsi, l'ex vice camerlengo, sua eminenza Paolo Sardi. Insomma, questo scrive Marco Ansaldo in prima pagina e poi l'articolo continua a pagina 12 e 13. Ci saranno sorprese, continuavano a dire, riguardo all'inchiesta all'interno delle mura vaticane. Ebbene, le sorprese riguardano tre persone attorno al pontefice sui quali si starebbe stringendo il cerchio, perché sono identificati come i tre possibili altri corvi: la professoressa Ingrid Stampa, il vescovo Josef Clemens e il cardinale Paolo Sardi. Questi sono i nomi che Repubblica mette appunto in stampa, anche perché Paolo Gabriele, il maggiordomo, ha ampiamente parlato. A parlare ai detective vaticani è stato anche il suo smartphone, capace di rivelare il volume dei contatti, i messaggi registrati, il traffico di posta elettronica. Ed ecco dunque chi sono i tre nuovi grandi sospettati. I giudici vaticani si sono concentrati intanto su Ingrid Stampa, donna colta, musicista, appartenente al movimento spirituale di Schönstatt. Assiste Ratzinger dall'inizio degli anni 90 con l'incarico indefinito di governante. Alcuni l'hanno definita anche la papessa, era celebre tra le mura leonine la sua gelosia per chiunque avvicinasse il Papa. E poi appunto il cardinal Sardi, ben note le relazioni di lavoro, di amicizia tra la signora Ingrid e il cardinale, per tanti anni responsabile dell'ufficio che si occupa dei discorsi del pontefice. Per tutti e tre, quale sarebbe la motivazione che viene addotta dall'aver fatto portare fuori le carte al maggiordomo del Papa? È questa: la gelosia, la cosiddetta e ben nota storicamente nella Chiesa invidia clericalis per chi è più vicino al Papa. Insomma, questi sarebbero i motivi: la governante, il ghostwriter, l'ex segretario di Benedetto, altri tre corvi intorno al Papa. Questo è l'articolo che Repubblica mette con due ampie pagine, pagina 12 e 13, richiamo in prima. Va bene, invece cose più economiche, finanziarie, sia in Italia, gli stipendi degli italiani, sia in Europa, la Grecia che forse è fuori dall'euro. Questi sono i rumors che arrivano dalla Germania. Il premier Monti in Russia, tra l'altro, ha fatto questa citazione di De Gasperi, no? Sulla quale molti si esercitano oggi, addirittura il giornale ironico titola "Ora Monti si sente De Gasperi, autobeatificazione". È arrivata la citazione di De Gasperi quando è arrivata una domanda a Monti da parte di colleghi russi, quando hanno chiesto a lui se la politica debba prevalere sull'economia, E Monti ha risposto: il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni. Politica ed economia devono procedere assieme, ha detto Monti. Non bisogna guardare nessuna delle due con ottica a breve termine, è una sindrome non positiva. E per rafforzare questo concetto, alla domanda se fosse preoccupato oggi con l'apertura delle borse dopo che lo spread è salito a 500, Monti ha risposto: qui ci occupiamo di economia reale. Come dire, l'economia reale vuol dire i contratti che è andato a firmare con la Russia, contratti tra imprese italiane e imprese russe. Sta di fatto che c'è sicuramente preoccupazione in realtà per come apriranno oggi i mercati il lunedì, c'è preoccupazione per quello che sta succedendo anche in Europa, soprattutto quello che sta succedendo per quel che riguarda la Grecia. La notizia che è stata diffusa ieri dalla rivista Der Spiegel tedesca è che il Fondo Monetario Internazionale stia valutando l'idea di bloccare gli aiuti alla Grecia, tanto che addirittura Repubblica titola così in prima pagina: la Grecia quasi fuori dall'euro. Vediamo che cosa racconta per esempio Fausta Chiesa sul Corriere della Sera, pagina 8. Il Fondo Monetario Internazionale valuta proprio l'idea di bloccare gli aiuti alla Grecia. Questa notizia, riportata da Der Spiegel, arriva in un momento di grande turbolenza dei mercati alla vigilia della missione della Troika ad Atene. Il settimanale tedesco riferisce che l'organismo di Washington sarebbe intenzionato a non fornire la sua quota di aiuti alla Grecia prevista per settembre. In questo contesto, spiega sempre lo Spiegel, è altrettanto improbabile che Atene riesca a restituire alla BCE i 3,8 miliardi di obbligazioni in scadenza il 20 agosto. E dunque, in questa situazione, davvero c'è una Atene che rischia di finire fuori dall'euro a breve. Anche Repubblica mette in prima pagina un commento di Andrea Bonanni: può capitare che i falchi, quando esagerano, diventino avvoltoi. Inizia così l'articolo di Bonanni titolato La diga della BCE. È successo ieri col ministro tedesco dell'economia Philipp Rösler, che ha confermato e rafforzato le voci su un'imminente uscita della Grecia dall'euro. Rösler è un esponente del Partito Liberale, alleato della Merkel, portavoce dell'ala oltranzista del governo tedesco in materia di politica monetaria. E le sue dichiarazioni riprendevano voci riportate dalla stampa di Berlino sull'intenzione del Fondo Monetario di non rinnovare il prestito ad Atene. Domani parte la missione appunto della Troika per valutare la situazione, discutere le proroghe chieste dal governo greco, ma già si sa che gli ennesimi ritardi nel risanamento, colpevolmente accumulati durante la doppia campagna elettorale, difficilmente potranno essere colmati. E allora che succede? Se crolla Atene ed esce Atene dall'euro, di certo ci saranno nuove ripercussioni sui mercati finanziari. Questo è quello che sta succedendo in Europa, con Monti appunto in Russia, con l'apertura oggi dei mercati attesi qui in Italia alle 9 e appunto i timori che Atene esca dall'euro. Poi se si viene in Italia, certo, è un elenco di notizie a dir poco preoccupanti che trovate sui giornali. Beh, certo, quella che preoccupa di più forse è quella che riguarda il lavoro, il precariato, precari 8 assunti su 10, la mancanza del posto di lavoro stabile ormai sembra una realtà sempre più consolidata in Italia. Solo 2 assunzioni su 10 sono a tempo indeterminato, le retribuzioni sono praticamente ferme da 10 anni, sono queste le rilevazioni di Unioncamere e di Banca Italia. E allora, per esempio, sul Corriere, a pagina 2, nei contratti cresce il precariato, posto fisso per il 20% degli assunti. Questo è il tema principale: precario e impoverito da stipendi che non tengono il passo con l'inflazione. Questo è il lavoratore dipendente in Italia, che in 10 anni ha peggiorato la sua condizione. Sono i dati di Banca Italia da un lato, il monitoraggio di Unioncamere del Ministero del Lavoro dall'altro, che traducono in cifre questa realtà. Solo 2 assunzioni su 10 sono a tempo indeterminato, mentre le retribuzioni sono praticamente ferme da 10 anni, calate nel 2011 dell'1,3% per la prima volta dal 1995. Il posto fisso ormai è una rarità. Questo lo si trova nell'elenco dei titoli anche sul giornale. Italia, addio al posto fisso, ormai non si assume più, anche su Repubblica. Ne ho assunti 8 su 10 precari e i redditi operai precipitano, 1.240 euro in meno in 4 anni. Ecco perché ha maggior ragione quando parleremo alle 8.30 dello stipendio dei manager di Stato. In particolare ha fatto molto scalpore il fatto che il direttore generale della RAI è stato confermato, è stato eletto con 600.000 euro con contratto a tempo indeterminato, uno dei 2 su 10 evidentemente che in Italia può ottenere questo privilegio, nonostante il ruolo di direttore generale della RAI sia chiaramente un ruolo temporaneo che può durare qualche anno. E, insomma, di stipendi parleremo alle 8.30. Ma dicevo, i titoli sono ricordano tutti situazioni veramente difficili. Per esempio, c'è un focus molto interessante su quello che sta succedendo sui comuni italiani per quel che riguarda le spese. Su questo devo segnalare l'apertura del Sole 24 Ore, che oggi fa una inchiesta che mette a nudo tutte le spese dei comuni. Il titolo di prima pagina è «Comuni, ecco le spese da tagliare». A Roma le consulenze costano 5 volte più che a Milano. A Enna invece si spende il top per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Sono pagina 2 e 3 con l'inchiesta di Gianni Trovati, e poi trovate tutte le spese per capoluogo di provincia. Sono ovviamente le analisi del decreto della spending review, sono stati stabiliti delle spese standard e si è visto quali comuni sono sopra queste spese e quali sono sotto. Ebbene, qualche dato. A Milano, scrive Gianni Trovati a pagina 3, il trasporto pubblico costa al comune il 60% in più rispetto a Roma, ma funziona meglio, mentre nella capitale si spende quasi 2.600 euro ogni 100 abitanti per incarichi professionali, a Milano appena 465, ma a balzare agli occhi sono primati come quello di Enna, che per il servizio rifiuti spende, sempre in rapporto agli abitanti, il quadruplo della media nazionale e arriva a pagare il 177% in più di Novara, il 366% in più di Salerno, giusto per citare le due città sopra i 100.000 abitanti incoronate come comuni ricicloni nell'ultimo rapporto Legambiente. Oppure Asti primeggia nelle utenze, telefono, acqua, gas, eccetera, Chieti nelle spese per cancelleria e materiale informatico, mentre a giudicare dai conti gli uffici e gli immobili comunali mantenuti con più attenzione sono a Lucca, dove per queste voci si spende il quintuplo della media dei capoluoghi. Insomma, c'è da sbizzarrirsi davvero a trovare le spese delle città, le trovate capoluogo per capoluogo, le spese di cancelleria, di comunicazione e rappresentanza, di equipaggiamenti e vestiario. Per esempio Aosta. Aosta è in testa nelle spese per equipaggiamenti e vestiario. 633 euro per cittadino. Chissà perché ad Aosta si vestono tutti bene nei comuni. Oppure per i contratti servizio rifiuti, appunto Enna spende 40.044 euro per cittadino. Mentre, non so, a Verbania 14 euro, ma come? Da 40.000 a 14 euro, questo è il dato di fatto. Oppure la manutenzione ordinaria di immobili e auto, a Lucca 10.640 euro, li terranno benissimo questi immobili, che ne so, invece a Perugia si spende 850 euro. Allora non si capisce perché si debbano avere questi costi così spropositatamente diversi, sui quali ci vuole invece una uniformità. A proposito di comuni, però, oggi attenzione all'allarme che viene lanciato in prima pagina dalla Stampa, che suona così: 10 città a rischio fallimento. Questo è il titolo di apertura di prima pagina. In cima alla lista ci sono Napoli e Palermo. Sono 10 grandi città italiane con più di 50.000 abitanti, sono a un passo dal crack. Napoli e Palermo sarebbero in cima alla lista. E poi all'interno a pagina 2 e 3 si parla anche di Reggio Calabria, finita in rosso già nel 2007-2008, oggi oggetto di un'inchiesta della magistratura. Poi tante altre grandi amministrazioni, grandi e meno grandi. Tra questa c'è anche Milazzo, che potrebbe essere vicina al dissesto. In cima alla lista nera comunque sono i capoluoghi di Campania e Sicilia. Tra l'altro in queste due pagine, pagina 2 e 3, ci sono analizzate poi la situazione di Napoli con Antonio Salvati a pagina 2, 1 miliardo di euro di debiti, l'ombra dei crediti inesigibili, e invece Palermo a pagina 3, risanamento strada obbligata, altrimenti la città morirà. Ne avete avuto abbastanza di notizie negative? No, guardate, oggi è incredibile. Guardate sul Messaggero, c'è un'interessante pagina firma Marco Ferrante che ci dà una cifra. Sapete quanto ci sono costate le baby pensioni? Le baby pensioni, cioè quella scelta scellerata che fu fatta in passato di dare la possibilità di andare in pensione con 14 anni, 6 mesi e un giorno per le donne con figli e 19 anni, 6 mesi e un giorno per gli uomini e 24 anni, 6 mesi e un giorno per i dipendenti degli enti locali, la scelta che fu fatta nel 73. Secondo questo calcolo del Messaggero ci sono costate 150 miliardi di euro. Le baby pensioni costano 150 miliardi. L'insostenibile spesa di 40 anni di welfare squilibrato è una inchiesta che trovate in prima pagina e poi continua a pagina 7. Marco Ferrante racconta appunto di quel 1973, l'anno della crisi energetica, della guerra del Kippur, del Watergate in America, gli anni 70, un comando di terroristi allora compie la strage di Fiumicino contro un aereo della Panam, il 45 gira al primo posto e la collina dei ciliegi di Lucio Battisti, il presidente del consiglio era Rumor. Questa era la situazione allora. Ebbene, questo studio sulle baby pensioni, sulle quali oggi ci si chiede com'è possibile che la classe politica di allora non si rendesse conto dell'insostenibilità di questo genere di misure, cinismo, irresponsabilità, superficialità. Beh, scrive Ferrante, i socialisti vi diranno che era il modo di far politica della DC. I democristiani ricorderanno il ruolo dei ministri del lavoro socialisti, tutti tenderanno a spiegare che non si avvertiva il problema dei costi del welfare, era semplicemente un altro mondo. E così fu allora che iniziò a impennarsi la spesa pubblica e c'è questo calcolo. Eccolo qui. Quanto ci sono costate in valori la differenza, cioè il costo in più rispetto al normale trattamento pensionistico, varrebbe 148,6 miliardi. In questi 40 anni l'esistenza delle baby pensioni ci è costata quasi 150 miliardi in più di quanto ci sarebbe costata la previdenza se i baby pensionati fossero andati a riposo con le stesse regole degli altri. Allora, la notizia, i sindacati, è sul Corriere della Sera in prima pagina. La notizia è questa: il governo studia il taglio dei fondi per i sindacati. Poi lo trovate a pagina 3 con Antonella Baccaro. Spesa per i sindacati nel mirino del governo. C'è grande attesa, racconta Baccaro, per l'incontro tra i sindacati e il ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi sui tagli al pubblico impiego, ma non solo sui tagli al pubblico impiego, c'è anche circolata un'altra notizia secondo la quale il rapporto che Giuliano Amato ha fatto sui tagli alla politica contenga un capitolo sui distacchi sindacali che ogni anno costano allo Stato qualcosa come 151 milioni di euro secondo le stime della Corte dei Conti. E allora i tagli del rapporto Amato potrebbero rientrare nel ventilato decreto di agosto. Interventi da 6 miliardi circa che servirebbero per evitare l'aumento dell'IVA della seconda metà del 2013 e che ora riguardano anche questo possibile taglio di questi 151 milioni sul tema distacchi sindacali. Per ora i sindacati tacciono, per loro è già un sacrificio quella norma della spending review che taglia del 20% i compensi per i centri di assistenza fiscale derivanti dalle dichiarazioni fatte per conto dell'INPS. All'inizio il provvedimento era anche più severo, prevedeva di ridurre i contributi che lo Stato paga ai CAF per ciascuna dichiarazione. Non è detto però che su questo non si apra un nuovo tema. Certo, la notizia viene data per certa dal Corriere della Sera sulle possibilità di tagliare fondi anche per i sindacati, per i distacchi staremo a vedere. Intanto, in tutto questo, in tutte queste notizie, insomma, crollano i comuni, la Grecia fuori dall'euro, 10 comuni al dissesto, le spese per le baby pensioni 150 miliardi, 8 stipendi su 10 ormai sono di contratto a tempo temporaneo, insomma, non a tempo indeterminato, tranne quello del direttore generale della RAI, ovviamente. Ebbene, in tutto questo si rilancia l'idea politica del voto a novembre. L'Unità è il giornale che oggi lancia in maniera più convinta questo tema, con un punto di domanda, per la verità, in titolo di prima pagina: meglio votare a novembre? L'idea sarebbe quella di fare una legge elettorale in 10 giorni, e qua le grasse risate dovrebbero sentirsi in sottofondo, come quando partono gli applausi, qui invece le grasse risate, in 10 giorni, ma ne sono già passati 20 da quando hanno detto la faremo in 10 giorni. Comunque l'idea è quella di fare una legge elettorale in 10 giorni o in 20 giorni, brevemente, per poi andare al voto. Su questo non lo so, forse è ancora più interessante o meno interessante il dibattito che è nato nel weekend sulla candidatura o ricandidatura per la quarta volta di Silvio Berlusconi, dopo che Libero ha raccontato, ma in fondo Berlusconi ci ha ripensato, non è vero che si ricandida, Berlusconi ha smentito, è vero, mi candido. Il dibattito adesso si è spostato su questo: si candida o non si candida? Si candida o non si candida? Oggi Berlusconi, il ritorno in campo, non mi candido è una falsità, quindi si candida, però al momento non è sciolta alcuna riserva. Se volete invece c'è il resoconto quotidiano su Nicole Minetti, oggi lo dà il Corriere della Sera, lo attendevano tutti qua. Fabio Cantadori dice: finalmente una notizia che mi interessa, Nicole Minetti. Allora, pare che ci sia un giallo sul suo futuro, per ora parte per Los Angeles, e allora si concretizzano sempre più le ipotesi che la danno come una persona che sta guardando proprio a Hollywood, sta puntando a lì, a Los Angeles. Pare che ci sia stata questa trattativa per cercare di ottenere una buona uscita da Silvio Berlusconi, per rilevare un centro di fitness a Los Angeles e trasferirsi lì. Insomma, anzi, addirittura, secondo queste ricostruzioni, sarebbe Nicole Minetti ad avere lanciato per prima l'idea: mi dimetto 3 mesi fa perché non ne posso più per la pressione mediatica. E hanno colto la palla al balzo del partito dicendo si deve dimettere, ma in realtà sarebbe stata Nicole Minetti 3 anni fa, tre mesi fa a lanciare per prima l'idea: non ce la faccio più, datemi una buona uscita, me ne vado a Los Angeles, rilevo un centro di fitness, mi trasferisco lì. E chissà, magari diventa anche una star del cinema a questo punto, visto che Hollywood è lì vicina. Questo per quel che riguarda Nicole Minetti. La cronaca. C'è da dire che una notizia interessante data dalla Stampa è questa, a pagina 10. È una rivoluzione, sarebbe una rivoluzione allo studio del ministro della Salute Balduzzi: le visite del medico di famiglia a tutte le ore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quanti italiani che hanno bisogno di una visita urgente, magari una visita pediatrica per i loro figli, non trovano il medico perché, insomma, è weekend, devono andare al pronto soccorso, eccetera. Lo studio del Ministero della Salute, secondo Paolo Russo, sulla Stampa, pagina 10, è proprio questo. La novità per gli assistiti riguarderebbe i medici di famiglia, che dovranno ora obbligatoriamente aggregarsi in medici di famiglia, pediatri, specialisti ambulatoriali, per smettere di lavorare in proprio, associarsi per garantire studi aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Una vera e propria rivoluzione rispetto all'attuale convenzione dei medici di medicina generale, che molto generosamente si limita a indicare un orario minimo di apertura degli studi medici di sole 16 ore settimanali. Lavorando invece in equipe, i dottori dovrebbero ora invece rispondere sempre presente alle nostre chiamate ed evitare così quelle spesso inutili corse ai pronto soccorsi. Così sulla Stampa, visite del medico di famiglia a tutte le ore, una notizia che sicuramente susciterà grande dibattito. su questo. Per quel che riguarda la cronaca, c'è anche la vicenda Notav con il ministro Cancellieri. Dopo gli scontri dei giorni scorsi ha detto: ora basta, questa è pura violenza. Questa è la frase del ministro dell'Interno. I nuovi scontri in Val di Susa, la dura reazione del ministro dell'Interno. Ora non si esclude anche l'invio dell'esercito vero e proprio, soprattutto dopo che negli scontri il capo della Digos è rimasto ferito dallo scoppio di una bomba carta. Insomma, ci sono state nuove tensioni molto molto dure. Mentre su Repubblica devo citare questa notizia, pagina 21, un po' un contrappasso abbastanza definito uno smacco da Repubblica, l'ex ministra Brambilla, che si è vista chiudere il canile gestito in pratica dalla sua associazione a Lecco, nella sua città natale. Lei, che si batte per gli animali, per i diritti degli animali, in maniera molto appassionata e convinta, angusto e insicuro, chiuso il canile della Brambilla. Dal comune di Lecco, smacco per l'ex ministra. Titola e racconta Paolo Berizzi su Repubblica. Animali in viaggio, sì, ma in questo caso dal suo canile. Solo 3 giorni fa una raggiante Brambilla, dopo aver gioito per la chiusura dell'allevamento Lager Green Hill, esultava a bordo di un Frecciarossa per l'accordo che permetterà agli animali di viaggiare sui treni ad alta velocità. Ma ora il comune di Lecco ha stabilito che il canile municipale gestito dalla Brambilla attraverso la sua Leida non potrà più accogliere gli oltre 150 cani che sono ospitati. Troppo vecchio, troppo angusto, troppo insicuro. Insomma, non a norma con le leggi della regione Lombardia. E così, insomma, un contrappasso e uno smacco mica male per l'ex ministro Brambilla. E siamo qui a dare il buongiorno, è un ritorno al governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, lei domani vede il presidente, il premier Mario Monti, è un importante incontro. Come si presenta intanto dimissionario? Cioè lei conferma che il 31 si dimette? Intanto, come lei ben sa, le dimissioni camminano su un binario diverso. È un impegno che ho assunto e che dovrà portarci a svolgere le elezioni regionali il 28 e il 29 di ottobre, perché il nostro statuto, che poi è un pezzo di Costituzione, prevede che se ci sono le dimissioni del Presidente entro 90 giorni, o anche se si dimette l'Assemblea, comunque nel caso in specie, dopo entro 90 giorni si va a votare. Si voterebbe il 28 e il 29, quindi questa è una volontà che ho espresso 100 volte e che annunzerò in sede di Assemblea regionale il 31 prossimo 21. Perché ha usato un po' troppi condizionali, però dovrebbe, no? Dovrebbe, perché grazie a Dio siamo nelle mani di Dio, io sono un credente. Dico, se tutto va bene, se non succede niente di diverso che possa portarci soltanto ad anticipare le elezioni ulteriormente. Quindi insomma l'unica possibilità è quella, diciamo. Beh, no, perché mancano 8 giorni a questo 31 luglio, allora sa, qualcuno ha anche ipotizzato che ci potesse essere un suo ripensamento all'ultimo momento. Assolutamente no, io dico, voglio dirle, uso il condizionale perché per cautela e perché, ripeto, metta che mi succeda qualcosa, allora in questo caso le elezioni vengono ulteriormente anticipate. Senta, domani che dirà Monti? È arrabbiato per le notizie sul crack della Sicilia che qualche titolo di giornale ha sparato in prima pagina? Per la verità più di qualche titolo, certamente non lo dirò a Monti così per riferirglielo, perché non si deve a Monti tutto questo, perché questo, oltre che nuocere alla Sicilia, come ci stiamo accorgendo, nuoce anche all'Italia. E devo dirle che lì sono stati in particolare alcuni giornali, il giornale è Libero . E tra le forze politiche Casini e l'UDC, che non vedono l'ora di indebolire la Sicilia cercando ovviamente di accaparrarsela dopo essersela accaparrata per molti anni prima che io venissi, in quanto Cuffaro, come sapete, ma anch'io eravamo nell'UDC e quindi l'UDC aveva una responsabilità diretta e un grande vantaggio per la verità nel governo della Sicilia. Io gli dirò che sebbene la situazione è difficile, tenga conto che il nostro rating è simile a quello del Veneto e siamo più avanti rispetto al Piemonte, la situazione è difficile, ma è difficile non perché i nostri conti non tengano, però noi riusciamo a governarla. Perché è difficile e i nostri conti tengono? Perché noi abbiamo un debito di 6 miliardi su un prodotto interno lordo di 80, più o meno il 5% del prodotto interno lordo del paese. Quindi abbiamo, come dire, un debito che pesa sul prodotto interno lordo per il 7%. Quello dell'Italia pesa per il 120%. Però lei sa che Standard & Poor's proprio ieri ha sospeso il giudizio sulla Conti della Sicilia. Ha questo? Confermato no. Il rating. Però non vi preoccupa questa sospensione in attesa di... Le dico subito, in attesa di ulteriori informazioni. Ma questo è il frutto della campagna di aggressione che è stata fatta contro la Sicilia. Io non, indubbiamente non mi intendo di Standard & Poor's o di Moody's e quindi di queste società che attribuiscono il cosiddetto rating, ma non c'è dubbio che se lei, privato cittadino, padre di famiglia, se si diffonde la voce che lei sta fallendo o è quasi fallito o addirittura è fallito, questo si leggeva a nove colonne su quei giornali nei giorni scorsi, una banca sicuramente non le fa credito. A proposito, quindi, quei giornali lei li vuole querelare, ha chiesto credo un miliardo di euro al Libero. Naturale, il danno che un miliardo, cioè 2 miliardi? Un miliardo oppure 500 milioni, e 500 milioni credo che sia poco significativo. Quindi lei diceva, cioè rimettono a posto i conti della Sicilia, mi permetta questa battuta, ci sono 5,6 miliardi di buco, almeno quelli si potrebbero ottenere da Libero il giornale. Mi permetta, la prego di farmi parlare, questo non è assolutamente vero. Noi abbiamo un prestito, abbiamo dei mutui contratti per 5,6 miliardi su un bilancio di 27. È come se lei, torno all'esempio della famiglia, intanto se si sparge la voce che lei sta fallendo, nessuno ovviamente le dà più credito, numero uno, ed è quello che rischiamo che succeda alla Sicilia. Poi, per quanto riguarda il prestito, è come se lei avesse un reddito annuo di 27 mila euro, i nostri 27 miliardi di bilancio, e avesse un prestito bancario di 6 mila euro. Come vede, è una cosa più che sostenibile. Tanto è vero che giorno per giorno, per ogni euro che entra alla regione, si mette da parte quello che si definisce il servizio del debito, e cioè quello che serve per pagare le rate di mutuo, che abbiamo puntualmente sempre pagato fino al 30 giugno, e stiamo mettendo da parte i soldini che servono giorno per giorno per pagare il mutuo del 31. Però, Presidente, quei crediti esigibili di circa 17 miliardi, qualcuno... Non è così. Allora, qualcuno dice che non sono davvero così crediti solidi che la Sicilia... I cosiddetti residui attivi, quelli che ci riguardano personalmente, e che riguardano tutte le regioni, che sono... come dire, certificati dallo Stato, perché è lo Stato che ci dice di considerarli in quanto dallo Stato certificati, per quanto ci riguarda, per quanto comportino quel rischio che lei dice, sono complessivamente al massimo per 2 miliardi, ma dovrebbe da un momento all'altro lo Stato dirci, perché ci ha detto che sono esigibili, da un momento all'altro dirci che non sono esigibili, e per prudenza noi abbiamo cominciato ad istituire un fondo che pareggi il rischio dei 2 miliardi, al quale abbiamo già versato 180 milioni. Il vero problema per noi è invece quello della liquidità. Sì. Il problema della liquidità è avere il contante per pagare i nostri creditori, che sono i fornitori vari di prestazioni. Ma quello arrivano credo 400 milioni, che peraltro sono cifre dovute. Allora, il dovuto è 1 miliardo di euro. A stretto giro arrivano 400 milioni. Spero che arrivino, ma dico, il problema è la liquidità, il ritardo nel pagare i nostri fornitori. Però mi permetta, Presidente, lei domani a Monti cosa dirà? Cioè, qualcosa ci ha già detto, ma si vedrà. Allora, faccia a faccia a Monti. Che, peraltro, oltre che il Presidente del Consiglio è un grande economista, io dirò come stanno le cose. E così come abbiamo fatto, peraltro, con Grilli, quando ancora non era ministro, abbiamo prospettato realisticamente la situazione, in un contesto nel quale riforme radicali per intaccare quelle che sono le cause strutturali della nostra debolezza economico-finanziaria, ne abbiamo già parlato con il vice ministro Grilli allora, dirò, vediamo di lavorare insieme, perché in un arco di tempo ragionevole, noi a Grilli avevamo prospettato 3+3 anni, noi possiamo uscire da questa condizione di crisi. Certo, una delle ragioni di debolezza del nostro bilancio è legata al fatto che la spesa corrente incide per molto, ma noi la spesa corrente l'abbiamo ridotta in questi quattro anni del 20% e abbiamo incrementato del 20% la spesa per investimenti. Però, anche se qua mi si crocifigge per la vicenda dei precari, dei forestali, dei dipendenti. Io questa gente l'ho trovata e fino a prova contraria questa gente non la si licenzia e non la si uccide. Però Presidente, abbiamo letto anche già ieri abbiamo letto che c'è stata un'altra infornata, leggevo sul Corriere, di 2300 stabilizzazioni di precari, di cui 70 hanno lavorato un mese. Posso dirle come stanno le cose? E come stanno? Veda, il Corriere, come altri giornali, per carità, ci attaccano giorno per giorno. Raccontano tutti i fandoni. Questi erano... No, non raccontano fandoni, raccontano cose profondamente inesatte. E quelle che invece le dico io, ovviamente, sono non solo esatte e vere, ma siccome sono il Presidente della Regione, io posso essere, se dicessi delle sciocchezze, inchiodato alle mie sciocchezze. Noi avevamo 3 società partecipate che fornivano servizi all'amministrazione pubblica, al 99% alla Regione. No? Sì. Queste 3 società le abbiamo fuse in una sola, in virtù di una legge regionale, e abbiamo messo insieme i dipendenti delle 3 società in una sola società. Quindi sono gli stessi lavoratori di quelle 3 società che, transitando in una, fanno scrivere assunte 2000 persone. Assunto e non abbiamo stabilizzato, perché si tratta di una di quelle società che, secondo il decreto Monti, cosiddetto spending review, sono state fuse. Però o dovranno essere privatizzate. Mi scusi, lei mi dice nessuno viene lasciato a casa, però che facciamo? Cioè, non abbiamo assunto nessun lavoratore che ha fatto 70 giorni, perché se avesse aperto un contenzioso l'ho aperto con le società che sono morte, sono state liquidate e certamente non potrà rispondere la nuova società, e abbiamo avviato il giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori che negli anni scorsi hanno fatto cose del genere. Però cioè, Presidente, per 70 giorni, no, va bene, ma le chiedo questo, cioè lei dice non si lascia nessuno a casa e non gli si può ammazzare, e per carità, e questo è giusto, però con questa politica si è arrivati a un numero di dipendenti, per qualcuno il triplo rispetto al necessario nella regione Sicilia, per politiche pregresse, però che facciamo? Sono d'accordo con lei che può essere molto di meno, però guardi, si grida allo scandalo per l'alto numero di dipendenti della regione siciliana, e ne abbiamo 20.000, ma tanto per essere chiari, ne abbiamo per la verità 17-18.000, ne abbiamo 16.500, 11.000 di costoro, rispetto ai 5.000 che svolgono funzioni simili a quelle della Lombardia, 11.000 di costoro sono impegnati in funzioni e in uffici, esempio la motorizzazione civile, le sovrintendenze, i igieni civili, che nella regione Lombardia, come nella regione Marche, cioè nelle regioni sudordinarie, sono funzioni statali. Perfetto, dipendenti statali. Infatti togliamo l'autonomia e risolviamo tutto, ma lei Dopodiché, su questo... Non risolviamo proprio un bel niente togliendo l'autonomia, anche perché l'autonomia non la si può togliere, e capisco bene che tutta questa gran cassa che è stata sollevata serve in effetti per eliminare l'autonomia, che dà fastidio. Riconosco che l'autonomia è stata usata male, così come dovete riconoscere Però il mio governo, da quando si è insediato, ha portato una legge che è stata approvata, che ha bloccato tutte le assunzioni. Tant'è vero che i forestali di cui si parla, in numero di 30.000, sono 26.000. E sapete perché? Perché sono andati in pensione 4.000 persone, così come dicasi i dipendenti regionali, che hanno toccato il picco minimo col mio governo, perché non si è assunto nessun nuovo dipendente. Non vengono rimpiazzati, solo che tra 20 anni forse si arriverà a un numero normale. Si arriverà a un numero decente entro 8-9 anni. La gran parte di questi dipendenti, visto che di nuovi non ne sono stati assunti, hanno attorno ai 50, 53, 55 anni. Senta, se domani uscisse la parola commissariamento dall'incontro, lei come reagirebbe? Ma non è possibile, perché sarebbe illegittimo. Sarebbe illegittimo, sarebbe un capriccio, sarebbe il volere assecondare quanti, non soltanto tra le forze politiche, mi riferisco all'UDC, che non vede l'ora di mettere le mani nuovamente sulla Sicilia a costo di farla pagare cara ai siciliani e alla Sicilia. Questo non è consentito. Non sarebbe lecito. Se ci fossero le condizioni, per carità, sarei io stesso a invocarlo. Siccome sul piano politico e sul piano morale abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo, e questo Monti lo sa, comunque io glielo preciserò per filo e per segno, questa sarebbe una cosa, come dire, che non sta né in cielo. Un'ultima cosa, Presidente, me lo dice chi è quello pseudo industriale al quale le ha detto se ne vada a morire ammazzato piuttosto che io lascio? Io intanto non ho detto assolutamente così. Beh no, c'è l'audio, Presidente, non dica così. Piuttosto se ne vada questo industriale. E chi è? C'è un imprenditore, c'è un signore, no, il chi è non glielo dico, non è perché non lo bello. Non è lo bello. Chiaramente su questo ha montato un gran casino. Il quale dice dobbiamo ammazzare i dipendenti regionali perché non fanno niente, dobbiamo ammazzare eccetera eccetera, intanto licenziandoli è come se li si ammazzasse, indubbiamente. Dico, ma vai a morire ammazzato tu piuttosto che parlare io. Ho una grande confidenza con quest'uomo per poterglielo dire. Ma non ci dice chi è. Ma si figuri, gente che dice mettiamo sulla strada. Se ha detto questa cosa dovrebbe essere pubblico anche il nome, dovremmo saperlo tutti. Io non ho visto uno pseudo industriale che ha detto ammazziamo. Lei non l'ha visto, ma no. Io lo so bene, c'è tanta gente ovviamente che lo può confermare. Si è fatto già un gran dire su questo argomento, preferisco, come dire, non continuare nella polemica. Un'ultimissima cosa, è stato votato però questo dall'Assemblea regionale con voto segreto, è stato bocciato un emendamento del PD che prevedeva il divieto per gli enti pubblici di dare incarichi di consulenza a soggetti rinviati a giudizio o condannati per una serie di reati, tra cui la mafia. Sembra normale tutto questo? No, l'Assemblea tornerà a votare su questo argomento, ma nel frattempo chi ha la responsabilità di nominarli sia tranquillo che si atterrà comunque alle regole di quell'emendamento, seppure non è stato votato. Questa però potrebbe non farlo, allora tanto valeva votarlo. Ma sia il senso di responsabilità, perché ritenendola una cosa opportuna si farà così. Si farà così. La ringrazio, buona giornata e grazie, buon incontro col presidente Mario Monti. Domani è il governatore della Sicilia Raffaele Lombardo ai nostri microfoni. La pubblicità, ci fermiamo solo un minuto, poi parleremo di stipendi, ci sono gli stipendi, gli italiani 8 su 10 ormai sono a tempo determinato, non è così in Rai. Non è che vogliamo focalizzarci sullo stipendio del direttore generale della Rai Luigi Gubitosi, che prende 600.000 euro l'anno a tempo indeterminato, sebbene l'incarico del direttore generale della Rai sia a tempo determinato, però insomma è un po' un paradigma, una metafora di quello che può essere preso a esempio rispetto a quello che succede agli italiani. 600.000 euro a tempo indeterminato il direttore generale della Rai. Voglio salutare il consigliere della RAI, del consiglio di amministrazione, Antonio Verro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi faccio salutare anche Stefano Feltri, giornalista del Fatto Quotidiano, buongiorno Stefano e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. A cercare anche di capire perché c'era stato messo questo tetto da 295.000 euro nel decreto Salva Italia per i manager di Stato, per i dipendenti di società pubbliche, e perché non è stato applicato? Dottor Verro, intanto so che lei non ha votato questo stipendio. Io non ho votato, ho criticato quello che lei ha prima descritto pubblicamente e appunto ho manifestato il mio dissenso anche in consiglio col voto. Io non ho niente contro Gubitosi, ovviamente, che è un manager di tutto rispetto, ha un profilo eccellente, ha maturato grosse esperienze in campo finanziario, e però francamente io non ho condiviso né il metodo né il merito della sua nomina. Il metodo perché francamente la legge dice che il direttore generale deve essere indicato dal consiglio di amministrazione, in realtà è stato imposto dal governo. Io immagino cosa sarebbe successo se una cosa del genere l'avesse fatto un altro presidente del consiglio. Tipo Berlusconi. No, non lo so. Onestamente le dico che critico questo metodo oggi, l'avrei criticato ieri se l'avesse adottato Berlusconi. Sul merito invece. E siamo in un momento in cui stamattina lo spread è a 510, la tempesta finanziaria non si placa e si sta travolgendo tutti, incide ovviamente sui redditi medi, sui redditi bassi, i dipendenti della RAI non prendono l'MBO, il premio di produzione da non so quanto tempo, si parla di prepensionamento, c'è quella legge che prevede il tetto di circa 300.000 euro sui manager della pubblica amministrazione, ci sono dei dubbi giuridici, si applica o non si applica alla RAI, io sono convinto di sì, ma voglio dire, al di là di questo, la scelta di non ritoccare e di confermare tout court lo stipendio del precedente direttore generale maturato un anno fa in condizioni totalmente diversa, io l'ho trovato totalmente sbagliato. Inelegante. Tra l'altro a proposito di questo tetto, Stefano Feltri, tu insieme al collega Carlo Tecce, credo, avete pubblicato quello che è passato come paperoni di Stato, no? Perché non è che vogliamo concentrarci sullo stipendio del direttore generale della RAI, è un paradigma, è un po' un emblema in questo momento, è anche una metafora se volete, paragonandola ai titoli dei giornali che trovate oggi in stampa, vale a dire 8 italiani su 10 non hanno il posto fisso ormai, hanno contratti a tempo determinato. Ecco, perché non c'è questo tetto applicato di 295.000 euro in questo caso? Si poteva fare in maniera pratica, Feltri? Questo è il grande mistero, nel senso che il tetto era da 294.000 euro, che è lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione in realtà in Italia viene introdotto in varie forme da 5 anni, poi ogni volta scompare, si perde nei meandri del Parlamento. No, la ragione, diciamo, procedurale per cui non c'è nel caso della RAI è che non è mai arrivato il provvedimento che doveva regolamentare la cosa per le partecipate del Tesoro, cioè serviva un altro decreto che appunto per evitare problemi di ricorsi al TAR eccetera fissasse delle soglie diverse a seconda di quanto era grande la partecipata del Tesoro, per evitare che due persone che facevano lavori oggettivamente diversi venissero trattate in maniera uguale e quindi quello più sfavorito facesse subito ricorso vincendo e, come dire, spazzando via il tetto. Cioè per evitare i contenziosi. Un contenzioso l'avrebbe vinto se fosse stato uno stipendio da 200.000 euro, perché dice: ma come, il mio predecessore ne guadagnava 500-600.000 e io faccio la stessa cosa. Sì, ma non solo, non solo. Uno che sta alla RAI, cioè diciamo il direttore generale della RAI, potrebbe contestare che magari appunto il direttore generale di Finmeccanica prende uno stipendio diverso che il direttore generale della SACE ne prende un altro. Sono aziende diverse, serviva, cioè serve tuttora perché non c'è un provvedimento che dica, non so, sopra una certa soglia di fatturato c'è un tetto di questo tipo, sopra l'altra, insomma, delle fasce. Questa cosa non si è mai fatta, ma questo non è un, come dire, un ritardo amministrativo così semplice, è la dimostrazione che per come funzionano le cose in quel mondo lì, diciamo in quella paracassa, in quella vera cassa che è il manager di Stato, il manager della pubblica amministrazione, in realtà è tutto talmente blindato che i tetti saltano sempre, perché è dal 2007 che ci si prova a mettere un tetto. Ma, e non ci si riesce, eppure se ho fatto, no, consigliere Verro, è così, cioè voi non vi siete posti il problema, c'è questo tetto, oppure non è arrivato nessun decreto attuativo per le controllate del Tesoro? Io me lo sono posto e l'ho posto. Tant'è vero che vero è che certe cose si fanno per evitare contenziosi, ma credo che un contenzioso è in arrivo, perché ho l'impressione che la Corte dei Conti a breve si occuperà di questa vicenda. Ah, dello stipendio? Sì, dello stipendio. Sì, proprio dell'applicazione del tetto, adesso sì, probabilmente sì, prendendo spunto da questo specifico episodio, sul quale ho anche criticato e francamente continuo a criticare anche l'assunzione a tempo indeterminato, un po' per i motivi che avete detto voi da studio, ma un po' soprattutto perché l'incarico del direttore generale è per definizione a tempo determinato. Ma infatti questa, allora, per avere maggiore credibilità bisogna dire, consigliere Verro, che anche per quel che riguarda la nostra categoria, cioè i giornalisti in RAI, se si è direttori, si è direttori per sempre, almeno per quel che riguarda gli stipendi. Per cui io leggevo sul Secolo XIX Augusto Minzolini 550.000 euro l'anno, Antonio Caprarica 400.000 euro l'anno, Fabrizio Del Noce 400.000 euro l'anno, Giovanni Minoli 500.000 euro l'anno, perché mantengono la carica di direttori anche se vengono spostati a fare altre cose, alcuni lo diventano, lo rimangono, altri no. Perché? Cioè gli italiani cosa pensano perché, di queste cose? Non lo so, penseranno tutto il male possibile e hanno ragione, perché veda, il principio della casta che si evoca sempre riferendosi ad alcuna categoria, alla politica per esempio, e sono principi che vanno, cioè è una categoria alla quale appartengono tante professioni. La cosa francamente più sgradevole è, per chi ha una valenza pubblica come i politici, come anche i giornalisti eccetera, è invocare il rigore sull'appello degli altri e non applicarlo a se stesso. Il rigore è una categoria dello spirito che secondo me in questo particolare momento dovrebbe accompagnare tutti quelli che hanno un ruolo, una funzione tra virgolette pubblica. Su questo, prima del traffico, Stefano Feltri, c'è il fatto che venga finanziata anche in parte con il canone la RAI e dunque con soldi di tutti gli italiani, dovrebbe porre un problema diverso, oppure vale per tutte, secondo te, tutte le aziende controllate dallo Stato in qualche modo questo discorso? Ma il canone, quella del canone è una differenza, come dire, formale, nel senso che altre aziende di Stato non vengono finanziate con una tassa diretta, ma poi essendo che spesso operano in deficit i conti vengono poi ripianati con le tasse, quindi diciamo il discorso dovrebbe valere un po' su tutto. Va detto anche che se c'è stato bisogno comunque di questa forzatura di chiamare un manager, diciamo, della caratura di Gubitosi e quindi anche, diciamo, un po' del costo di Gubitosi, è perché la RAI, così come è gestita, stava andando verso una situazione che è stata considerata da Monti, ma non solo, insostenibile e prossima al collasso. Quindi, come dire, Verro fa bene a questionare lo stipendio di Gubitosi, ma dovrebbe anche chiedersi, cioè ricordarsi perché è così. E poi tra l'altro vorrei chiedere a Verro se ce lo dice, perché mi sfugge il dato in questo momento, quanto guadagna lui come consigliere. Ah, ce lo dica Verro, Verro, Quant'è il suo stipendio? Scusi, poi vorrei sapere quanto guadagna Feltri. Il mio stipendio è stato ridotto del 30%. Aspetta, Feltri, un attimo. Vero, dica lo stipendio. Allora, il mio stipendio è stato ridotto, come tutti quelli degli altri consiglieri, del 30%, e il nostro stipendio è 66.000 euro lordi l'anno. 66.000, pensa... Mi risultava di più, vero? Le risulta male. 66.000 euro lordi l'anno? Esatto. Ma sono 30.000 euro, 40.000 euro netti all'anno? Sì, più o meno sì. Non ho fatto i conti, ma più o meno siamo lì. Vero, non è che ci sono anche, oltre allo stipendio, poi indennità? Cioè quello che lei mette in tasca sono 60.000 euro lordi? Certo. Quello. Feltri, no? Ma è uscito su tutti i giornali. Sì, no, è chiaro. No. Che Feltri così attento non lo sappia. Stefano Feltri. Non me lo ricordavo in questo momento, no, comunque per rassicurare Verro, io secondo il mio commercialista io ho guadagnato 60.000 euro nel 2011, quindi insomma... Lordi? Lordi ovviamente, sì. Quasi pari a un consigliere di amministrazione. Facciamo cambio, Credo che però credo che Verro però abbia ancora la macchina con l'autista, se non sbaglio. Per i trasferimenti dall'aeroporto a... Per questione di servizio, certo, sì, sì, immagino, certo. Mica per andare a fare la spesa, voglio sperare, esatto, Verro. Esatto. Abbiamo composto questa diatriba sugli stipendi. Intanto vorrei sentire Matteo da Reggio Emilia, che ci ha chiamato l'800240024. Matteo, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, bene. Benissimo. Salve, io volevo semplicemente dire che non mi sembra un problema il fatto del tetto dello stipendio del manager. Perché? Dovrebbe essere un problema come opera, quindi non tanto quanto viene pagato. Cioè io dovrei pagare un manager molto, cioè io per il mio dipendente pubblico per me deve essere l'eccellenza, per cui io dovrei pagare anche in ragione di quanto prenderebbe se andassi in una società privata. Ma perché il tetto? Perché il tetto dice non è. Forse il tetto è stato messo perché in Italia ci sono stati dei casi clamorosi e quindi sì, sa. Può essere soprattutto in questo periodo qua un motivo anche di risparmio, diciamo. Però per lei conta quello che uno fa. Ma guardi, Matteo, no, a me non è intanto che importa il tetto, no, è l'idea tutta italiana che facciamo un decreto, mettiamo un tetto o ci proviamo a mettere un tetto da anni, come la questione della cancellazione delle province, vengono annunciate 2000 volte e per il momento al 22 luglio, oggi è 23 luglio, non se ne fa nulla. Allora questo secondo me, Feltri, è un po' la questione che fa arrabbiare molti italiani. Tetto no, uno può giudicarlo giusto o sbagliato, però viene annunciato, viene messo in pompa magna, ci sarà il tetto e poi si scopre che si guadagna 650.000 euro. È questo che fa infuriare gli italiani o mi sbaglio? Credo proprio di sì, perché facevi l'esempio giusto delle province, cioè anche lì è incredibile, ogni 3 mesi annunciano l'abolizione delle province e poi alla fine sono sempre lì, cioè ogni volta le devono riabolire perché ne restano lì e sono svuotate di competenze, ma tuttora tra noi. E lo stesso è il tetto dei manager pubblici, perché poi ci sono talmente tante scappatoie per ottenere appunto fringe benefit, per ottenere premi di produzione, indennità di rischio, per esempio, cioè c'è questo tema che non è molto trasparente, ma per alcune cariche tipo alti magistrati, non so, della divisione antimafia, cioè tutta una serie di figure hanno voci di stipendio che non figurano come indennità di rischio. Quindi cioè è veramente una cosa che sembra quasi impossibile. Allora, tanto varrebbe dire paghiamo a prestazione, questo è lo stipendio, questa è la prestazione, e alla fine, cioè quando scade il mandato, valutiamo se lo stipendio è stato giustificato, se no al giro dopo lo revochiamo. Qui il mandato non scade in questo caso per Gubitosi, perché è a tempo indeterminato. No, come molti senatori a vita, insomma, sono quelle è uno dei 2 italiani su 10, dei 10 che hanno vinto la lotteria, si potrebbe dire. Senta, Verro, le devo chiedere questo. Oggi sull'inserto di Repubblica parte la svolta in Rai, Spending Review e Sipra al primo posto, cioè l'agenda Tarantola-Gubitosi sarebbe questo: troppi canali, 15, troppe testate giornalistiche, 9, troppo personale, 11.410 addetti, ora bisogna mettere mano ai conti. Che cosa taglierebbe lei in Rai, Verro? Secondo lei cosa è che c'è di troppo ridondante? Ma la ridondanza con cui sono confezionati tutte le testate giornalistiche, per esempio, cioè è assurdo che ciascuna testata mandi la sua troupe, il suo giornalista, eccetera, ma era già previsto, cioè un po' succede in Rai un po' quello che succede nel paese. Noi 2 anni fa o 3 anni fa, adesso non ricordo, abbiamo approvato un piano industriale sotto la gestione Masi, approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, che prevedeva tutta una serie di accorpamenti che avrebbero fatto risparmiare all'azienda parecchi quattrini e che è rimasta lettera morta. Mi aspetterei e mi sarei aspettato una lotta contro l'evasione del canone. La RAI subisce un'evasione di quasi poco meno del 30%, mi sarei aspettato e mi aspetterei dalla nuova gestione così una definizione assieme al governo sulla vera natura giuridica della RAI, ente pubblico o non ente pubblico, mi aspetterei un dimagrimento degli obblighi di servizio pubblico che il contratto di servizio impone alla RAI. Di a tempo al tempo sono arrivati da 10 giorni. Per carità, non è una critica, è proprio quello che mi aspetto che loro facciano. Ecco, questo è quello. Questo è chiaro che ci vuole del tempo, non è una cosa che si può fare con qualche immagine. Sentiamo Marco da Genova, buongiorno Marco. Buongiorno, io invece mi aspetterei da questi signori si facessero una bella privatizzazione. Ce la vendiamo per 1 o 2 miliardi, abbassiamo il debito di 1 o 2 miliardi e ci togliamo un mare di persone che vivono di rendita in un modo spettacolare, perché credo che come servizio pubblico sia deplorevole e come livello di professionalità al di là di qualche individualità sia nell'ambito di una austera mediocrità. Beh, questo non lo sappiamo adesso. Lei conosce tutti i dipendenti della RAI, io voglio fare una difesa. No, io non conosco i dipendenti, ma i dipendenti, stia tranquillo che se arriva Murdoch la fa lui la selezione. Murdoch. E la fa molto meglio che sulla base di una tessera di partito. La fa sulla base della professionalità. Murdoch, quello cacciato è quasi sconosciuto. Quello che deve lasciare la Gran Bretagna e cedere tutti i giornali, Murdoch. Marco, grazie. Non so, Stefano Feltri, questo è pane anche per i tuoi denti. Privatizzazione della RAI, dice Marco, tiriamo su 1-2 miliardi, risaniamo, togliamo anche, diamo competenza, diamo professionalità a chi vale, gli altri no, e così risolviamo il problema. Ma questo non lo dico così per piaggeria, ma in Rai la professionalità ci sono pure adesso, cioè i problemi della Rai non è tanto che ci sono persone incapaci dentro che non lavorano, ci saranno sicuramente come in tutta la pubblica amministrazione, il problema della Rai è una gestione tutta politica dell'azienda, dalla direzione dei telegiornali alle promozioni, alle scelte editoriali dei programmi in prima serata, a scegliere cosa si mette in concorrenza con Mediaset e tutto il resto, è quello il grande problema della Rai. Su questo ha in parte ragione il vostro ascoltatore, una privatizzazione almeno parziale potrebbe da un lato risanare i conti, dall'altro migliorare l'offerta. Detto questo, ho i miei dubbi che in questo momento così finanziario ci sia la fila per comprarsi una rete RAI, cioè la 7 è in vendita di fatto da un anno a prezzi ben più convenienti, con una struttura di costi molto più allettante e diciamo non ci sono acquirenti, ci sono voci ma non ci sono file. Io mi devo fermare qui ringraziando il consigliere di amministrazione della RAI Antonio Verro per essere stato con noi, così come Stefano Feltri, collega del Fatto Quotidiano. Ci potete riascoltare su radio24.it, seguiteci anche su Twitter se volete @24mattino @AlinoMilan invece il mio account, e che dire, ringrazio un po' tutti, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Franco Piantanida anche là sta twittando, sta twittando, e Fabio Cantadore in regia, che troviamo domani credo per sua gioia per una nuova sveglia. Allora a domani alle 7:20.